Focus Economia. Le 17, 8 minuti, 46 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, anche se sui mercati, come già avete sentito dal nostro giornale radio, è tutt'altro che una buonasera. Ancora una volta, verso il pomeriggio, le borse hanno girato a ribasso, e hanno girato a ribasso pesantemente, sulla scorta anche in parte degli Stati Uniti. In questo momento il Dow Jones c'è dell'1,17%, il Nasdaq l'1,78%, quindi nulla di particolarmente drammatico. Molto male vanno invece le cose nel resto d'Europa, se considerate che anche Francoforte lascia sul terreno 3 punti percentuali, Parigi quasi 5 punti percentuali, meno 4,82%, Milano in questo momento sta risalendo lievemente, il FTSE MIB cede comunque il 3%, il FTSE O'Share il 3,23%, il tutto condito tra l'altro in particolare a Milano da un problema tecnico che ha bloccato gli scambi in borsa per qualche ora, a quanto pare dalle 15.30 circa o poco dopo, fino ad un attimo fa, le 17 appunto, come avete sentito nel nostro giornale radio. Questa dunque la giornata, ancora una giornata molto difficile sui mercati, anche se vedo che le cose piano piano stanno migliorando, insomma Milano era arrivata a cedere circa 5 punti percentuali, e su questo anche sollecitati non solo naturalmente dai vostri sms che già ci arrivano al 349-238-6666, cercheremo di dare una risposta, insomma cercheremo di capire che cosa è successo ancora una volta oggi sui mercati. Cercheremo anche di capire in questa puntata la posizione di Moody's. Come sapete, ieri un report di Moody's sulle banche europee ha parlato di rischi di contagio appunto per gli istituti di credito del vecchio continente, citando tra questi istituti di credito anche l'Italia. Oggi la posizione è stata definita un pochino meglio nel momento nel quale si è parlato invece del debito sovrano italiano. Questi ed altri argomenti, ma su tutto naturalmente i mercati. Iniziamo però con le notizie in breve di questa giornata e poi appunto apriremo la pagina subito, immediatamente, la pagina dedicata ai mercati. Notizie in breve molto dedicate anche queste a quel che sta succedendo in queste ore. Iniziando naturalmente come sempre dal petrolio. Petrolio che anche oggi fa segnare netti ribassi. L'apertura a New York è stata in calo dello 0,4% a $76,83 al barile. Poi c'è stata una discesa ulteriore ai minimi da 11 settimane a $74,50 al barile, fatto che si era già verificato ieri. L'impatto naturalmente di questa giornata c'è stato anche, come era prevedibile, sul mercato dei cambi. In mattinata l'euro era in rimonta, alle 13 sfiorava quota $1,28, adesso quota a $1,26,99, insomma a ridosso di quota $1,27, insomma le cose sembrano andare lievemente meglio proprio in questa fase, insomma stanno migliorando, eravamo arrivati intorno agli 1,26. E forse una qualche responsabilità è nei dati che sono arrivati dagli Stati Uniti, ma anche questo lo verificheremo. C'è stato il tasso di disoccupazione che ad aprile è salito al 9,9%, dal 9,7% precedente, alimentando i timori che sia comunque una ripresa senza occupazione, che è quello che si sente dire da un po' di tempo dagli economisti. Sono stati però creati 290.000 posti, il maggior rialzo da 4 anni a questa parte. Gli economisti si aspettavano 190.000 nuovi posti, quindi teoricamente il dato è migliore delle attese. Sempre sul fronte delle conseguenze della crisi e restiamo negli Stati Uniti. Alle prese con problemi legali, Goldman Sachs perde uno dei maggiori suoi clienti corporate ed è AIG, lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali AIG avrebbe sostituito Goldman con Citigroup e Bank of America in qualità di maggiori consulenti. La decisione della compagnia assicurativa rappresenterebbe la prima defezione, almeno tra quelle di un certo rilievo, fra i clienti della banca dopo le accuse di frode dell'assicurazione. SEC. Nel frattempo si cerca un accordo. I legali di Goldman Sachs avrebbero incontrato questa settimana alcuni rappresentanti della SEC appunto per cercare un accordo extragiudiziale. Nel frattempo l'amministratore delegato di Goldman, Lloyd Blankfein, dice: al momento non ho piani per lasciare lunedì, ma oggi è in programma un voto sui direttori. Io sono direttore, in un paio d'ore avremo i risultati di questo voto. Ancora mercati, ma quelli obbligazionari, in particolare quelli delle obbligazioni di Stato. In Grecia oggi si è, per quanto riguarda la Grecia in realtà, si è toccato un nuovo record di spread, ossia il differenziale di rendimento sui bund, sulle obbligazioni tedesche. Per quanto riguarda i titoli di Stato greci a 10 anni, ha superato la soglia dei 900 punti, raggiungendo quota 966, e parliamo dello spread. In forte rialzo anche quello dei titoli decennali del Portogallo rispetto al Bund, a 346 punti, mentre quello della Spagna è a 164 punti. Da segnalare che ha fatto segnare un certo rialzo anche lo spread per quanto riguarda i titoli inglesi, questo in conseguenza di una situazione politica ancora piuttosto incerta, come vi stiamo riferendo anche nei nostri giornali radio. E però dalla Spagna arriva quella che è una buona notizia per Madrid, perché la Spagna è riemersa dalla recessione nel primo trimestre 2010. Si fa per dire, perché il PIL ha segnato una crescita dello 0,1% nei primi tre mesi dell'anno rispetto al trimestre precedente, mentre invece rispetto al primo trimestre 2009 il PIL spagnolo ha segnato un calo dell'1,3%. Oh, si diceva della Gran Bretagna: l'esito delle elezioni non modifica il nostro giudizio sull'affidabilità creditizia della Gran Bretagna. Questa è la sostanza di due comunicati arrivati da due agenzie di rating, ossia Standard & Poor's e Moody's. E a proposito di Moody's, dice che la Grecia indebolisce le prospettive della crescita europea. Lo scrive appunto Moody's nel suo Outlook sull'Europa. Poi più avanti sentiremo l'intervista con la persona che si occupa di debito sovrano appunto per Moody's, che ci chiarirà anche un pochino i termini di quello che è successo ieri. Dice Corrado Passera, proprio a proposito del report di Moody's che citavamo poco fa: le banche italiane nel loro insieme hanno tutti gli strumenti per affrontare questa situazione, non vedo nell'immediato conseguenze o ragioni di allarme. E ancora, senza dubbio da tutti ci viene riconosciuto che in questo periodo i conti pubblici sono gestiti nel nostro paese più che adeguatamente per affrontare la crisi. Così dunque il consigliere delegato di Intesa San Paolo, sentiamolo al microfono della nostra Anna Marino. L'Italia anche in questo caso dimostrerà di avere tutte le caratteristiche e le forze per passare attraverso questa nuova crisi meglio di molti altri paesi. Senza dubbio da tutti ci viene riconosciuto che i conti pubblici nel nostro paese in questo periodo sono gestiti più che adeguatamente per affrontare la crisi. Un paese ha dimostrato di non gestire responsabilmente i propri conti senza tener conto delle conseguenze a medio-lungo termine. Oggi la Grecia deve fare la sua parte per rimettersi a posto, può farlo. L'Europa deve fare la sua parte, perché sicuramente è un bene comune europeo la stabilità e la forza dell'euro. Fino adesso non si è operato con sufficiente determinazione, decisione e coraggio. Abbiamo l'euro, dobbiamo darci tutti gli strumenti per gestire la nostra valuta nella maniera più adeguata. È una crisi che sicuramente, secondo me, l'Europa ha i mezzi per gestire. Naturalmente dipenderà molto da come l'Europa nel suo insieme la gestirà, però le banche italiane nel loro insieme, sicuramente le grandi banche, ma tutte le banche nel loro insieme, hanno tutti gli strumenti per affrontare questa situazione. Quindi non vedrei nell'immediato alcuna conseguenza o ragione di allarme. Per chiudere vi do una notizia appena arrivata in redazione e riguarda la questione delle nomine di Intesa San Paolo, visto che abbiamo appena ascoltato la voce di Corrado Passera. Ebbene, Andrea Beltratti è il nuovo presidente del consiglio di gestione, lo ha nominato il consiglio di sorveglianza della banca, secondo quanto si è appreso al termine della riunione. Anche di questo parleremo più avanti, ma adesso cerchiamo di fare un punto sui mercati. Giornata veramente stranissima. vi abbiamo detto quel che stava facendo il Dow Jones non più tardi di un quarto d'ora fa. In questo momento cede appena lo 0,18%. Milano sta andando decisamente meglio. Il FTSE MIB perde l'1,70% in questo momento. Il FTSE All Share l'1,73%. Migliorano tutte le piazze finanziarie europee, se si fa eccezione per Parigi che perde 5 punti percentuali. Dunque ancora pesantissima. Fatichiamo a capirci qualcosa e ci rivolgiamo dunque a Mario Spreafico, responsabile investimenti Schroders Private Banking. Buonasera. Buonasera. Allora, che cosa sta succedendo, Spreafico? Ci aiuti, per carità. Oggi c'è stato sicuramente un effetto, un riflesso di quello che era la paura di ieri sul tema dei debiti sovrani, quindi la paura ancora per la Spagna, l'allargamento e il contagio dell'effetto Grecia su altri paesi. Oggi devo dire che si è partiti in mattinata con questo tipo di timore, soprattutto anche l'andamento del mercato americano ieri sera di Wall Street, dove questo errore tecnico ha procurato il panico, quindi con fortissime oscillazioni e di estrema violenza soprattutto nel corso della giornata di ieri in America, ha portato ancora un po' di pessimismo e sfiducia sui mercati. Devo dire che però nel pomeriggio, dopo i dati sulla disoccupazione americana che sono stati, devo dire, confortanti, e dato dalla produzione industriale in Germania che ha ribadito che c'è una ripresa in corso dell'economia, i mercati si sono in parte tranquillizzati, tranne nel pomeriggio che è riapparso un po' il timore di questa attività un po' frenetica del mercato americano che ha portato i listini a deprezzarsi notevolmente e adesso a un recupero direi anche abbastanza importante. La nota più importante comunque è che sembra che si sia proprio fermata la speculazione sui titoli di Stato. Infatti oggi c'è stato un importante recupero dei titoli oggetto di speculazione nei giorni scorsi, soprattutto verso la Spagna, ma anche l'Italia ha recuperato molto il suo differenziale di tasso rispetto al Bund tedesco. Allora, già al 349-238-6666 iniziano ad arrivare parecchi messaggi che citano il tema della speculazione. Si ha un po' l'impressione in questi giorni, Spreafico, che i cosiddetti speculatori, che non è necessariamente un termine negativo, nel senso che è gente che semplicemente lavora sui mercati e cerca di guadagnare, comunque sia, a prescindere dall'accezione negativa o positiva che sia della parola speculatori, si sia proceduto in qualche misura in ordine. Ordine, insomma, si è andati prima sulla Spagna, ieri sull'Italia, oggi Parigi perde il 5,28%, mi sembra che l'obiettivo sia abbastanza chiaro. Ma è verissimo, effettivamente devo dire anche noi investitori professionali siamo rimasti un po' devo dire colpiti da questo andamento che sembra quasi effettivamente molto anomalo, ma soprattutto privo di un razionale. Questo determina, io credo che sia ancora un po' la conseguenza di un modo di operare di alcuni soggetti nel mondo degli investimenti professionali, mi riferisco a fondi speculativi o anche altri tipi di attività che tendono a fare profitti nel brevissimo termine, ma l'evidenza in cui c'è stato proprio un'escalation di eventi, ma soprattutto nel colpire determinate aree, determinati mercati, l'esempio importante è stato sull'Italia, dove non c'erano motivazioni oggettive nel colpire i titoli di Stato, ma sono state colpite le banche. Qui determina un po' forse ancora dei colpi di coda di un certo modo di pensare di alcuni investitori speculativi che forse lascia un po' il tempo che trova e mi auguro che nel corso del tempo possa rientrare con delle regole forse un pochino più trasparenti. Mi sembra che a questo punto, a parte che ci chiede qualche ascoltatore sempre via SMS, che cosa stanno facendo le autorità di controllo, le cosiddette autorità di controllo, nella fattispecie la Consob ha deciso di indagare, l'ha comunicato oggi, su eventuali anomalie o irregolarità nelle contrattazioni sui mercati nelle sedute degli ultimi giorni. Insomma, qualche anomalia l'abbiamo vista, irregolarità non sappiamo se ce ne sono. E poi è in corso una riunione delle autorità di mercato europee, riunito nel Committee of European Securities Regulator, che si dicono pronte queste autorità di regolazione ad una risposta coordinata. La realtà forse, Spreafico, è che si attende un pochino di capire che cosa farà la politica. Penso ad esempio al Consiglio europeo di questa sera, penso alla riforma della finanza negli Stati Uniti. Certo, assolutamente, questo io credo che sia proprio il nucleo del problema. È giusto, ben vengano appunto gli interventi da parte dell'autorità di vigilanza, perché questo è ovvio e dimostra un po' quello che dicevo prima, del fatto che ci sono state effettivamente delle anomalie molto grosse nei movimenti di questi giorni, però è chiaro che occorre una regolamentazione di base, che deve essere una regolazione concertata tra tutti i paesi occidentali, quindi tra i mercati principali, al fine di rendere maggiormente trasparente un determinato tipo di operazioni, ma soprattutto anche di regolare eventualmente determinati ambiti di mercato in cui si intende operare. Grazie dunque a Mario Spreafico per essere stato con noi, direttore investimenti di Schroders Private Banking. Naturalmente sui mercati torneremo, perché insomma è una giornata che va commentata naturalmente anche a chiusura, per continuare a capire un pochino che cosa sta succedendo. Grazie Spreafico, buonasera. Grazie a voi, buonasera. E nel frattempo vi dico che si parlava di regolazioni, le autorità, ha detto il presidente americano Barack Obama, stanno indagando su quel che è accaduto ieri sui mercati, ossia quello che pare essere un errore tecnico che ha portato Wall Street a sprofondare, a perdere circa il 9%, e poi ha detto ancora Obama, ho parlato questa mattina con la cancelliera Angela Merkel, siamo d'accordo sulla necessità di una forte risposta alle difficoltà della Grecia. Dagli Stati Uniti si continua a ripetere questa cosa. Segno che qualche preoccupazione dall'America c'è. Torniamo alla questione di Moody's. Si diceva che dopo il report di ieri sulle banche, l'agenzia di rating, oggi in un appuntamento in realtà piuttosto tradizionale a Milano, ha incontrato clienti e giornalisti è tornata a parlare naturalmente del rischio paese, di quello che è successo ieri con il loro report sulle banche, che ha contribuito ad affondare i mercati. Questa mattina siamo andati all'incontro e abbiamo intervistato l'analista sul debito sovrano dell'Italia di Moody's, Alexander Kokerbeck. L'Italia è forzata molto meno di tanti altri paesi di fare un aggiustamento brutale. E questa è la grande differenza, e questo vuol dire che l'Italia ha un punto di partenza relativamente positivo in questo momento, perché è abituato a questa situazione di stress che c'è sempre nei conti pubblici quando il debito pubblico è abbastanza alto e la crescita economica è solo moderata. Quindi l'Italia infatti ha imparato durante gli anni di gestire una tale situazione. Invece per molti altri paesi nell'Unione, ma anche come gli Stati Uniti, la situazione adesso è che bisogna fare aggiustamenti molto forti. No, nel caso degli Stati Uniti si può sempre mettere in rilievo che hanno una capacità di crescita dell'economia abbastanza forte, quindi aiuta molto di crescere fuori dal problema. Nel caso dell'Italia, in paragone ad altri paesi europei, il vantaggio dell'Italia è che non deve reinventare il modello economico. Invece la Spagna, l'Irlanda e il Regno Unito sono forzati di fare aggiustamenti molto forti nell'economia reale, e quindi è una sfida più grande per questi paesi, ma alcuni di loro sono anche partiti con un debito pubblico molto meno alto. La Spagna ha un po' di tempo per aggiustare senza vedere esplodere il debito pubblico. L'Irlanda è un po' più sotto stress, perché l'aumento del debito pubblico si fa in modo molto dinamico. Ancora una volta qui l'Italia ha un vantaggio, perché la dinamica del debito pubblico, dell'aumento del debito pubblico, è molto meno nel caso dell'Italia, perché ci sono saldi primari importanti nel passato, che adesso sono tornati in saldi negativi, in deficit primari dei conti, ma nello stesso tempo l'Italia non deve aggiustare i conti pubblici in modo così brutale. Mi sembra di capire che complessivamente il messaggio che mandate oggi, non solo per quanto riguarda l'Italia, sia piuttosto tranquillizzante, ossia grandi rischi di contagio, frase di moda in questi giorni, non ne vedete. Sì, per noi è importante di differenziare e di vedere quali sono veramente le vulnerabilità. E per l'Italia abbiamo detto chiaramente che c'è una vulnerabilità, ma che non è nuova, che è tipica per un paese con un debito pubblico alto. Mi riferisco naturalmente non solo all'Italia, ma anche agli altri paesi, in particolare i cosiddetti PIGS. Ma per gli altri paesi, partendo dalla Grecia e dire che questo è il fenomeno di contagio che vediamo poi in altri paesi, questo è troppo semplice, perché il caso Grecia è molto particolare. La Grecia è praticamente un caso simbolico per vedere se la gestione di crisi all'interno dell'Unione Europea funziona, all'Unione Monetaria, se questo funziona. Questo è un test, è anche un fattore simbolico. Secondo, la Grecia, e questa è la differenza fra la Grecia e altri paesi, ha perso una buona parte della confidenza sui mercati, perché c'è stata confusione per quanto riguarda i dati statistici e un aumento brutale del deficit, la comunicazione di tutto questo certamente non ha aiutato alla credibilità. E questo problema, questo fenomeno non vediamo per gli altri paesi. Quindi, ripeto, il messaggio è abbastanza tranquillizzante. A proposito dei rischi contagio, ieri avete combinato un bel disastro, a quanto pare. Noi abbiamo, come facciamo in tutti i casi, abbiamo detto che la situazione del sovrano e la situazione delle banche è sempre legato. In due sensi. La prima cosa, se noi facciamo l'analisi del sovrano, dobbiamo vedere se c'è bisogno, per esempio, di capitalizzare le banche, il che può finire sul conto dello Stato. Nel caso dell'Italia c'è stato molto meno necessità di capitalizzare le banche. D'altra parte, se il sovrano ha dei problemi, prima o poi si fa vedere anche sul sistema bancario. Quindi è una considerazione teorica, una considerazione di analisi che abbiamo fatto, ma nello stesso tempo abbiamo in questo rapporto anche fatto vedere che anche qui, come ho fatto oggi per i sovereign, anche qui bisogna differenziare, e la situazione relativa dell'Italia, ancora una volta, è meglio, relativamente stabile in paragone a ciò che vediamo in alcuni altri paesi. Quindi l'idea è che in realtà siano i mercati che si stiano comportando con un certo grado di nervosismo, se non di isteria. Sì, i mercati hanno delle domande adesso, e questo è dovuto al fatto che l'Unione Europea, o la zona euro, è entrata anche in un'altra fase in questo momento. Una fase di crisi, una fase di forte aumento di debito pubblico, esattamente ciò che non si voleva vedere. Ecco perché c'è stato il patto di stabilità di Maastricht. Tutte le regole di Maastricht erano fatte per prevenire un caso come quello che vediamo adesso. E quindi c'è un nervosismo, e ci sono mercati che chiedono se i governi sono capaci di aggiustare, e se no, se non funziona, se i governi sono disposti a intervenire. Cioè è una domanda che c'è, è un certo nervosismo. Per noi come agenzia di rating la cosa importante sono i fenomeni a più lungo termine, cioè strutturali. Questa situazione dura per 2 anni, per 3 anni o dura un mezz'anno? Ha le capacità di veramente cambiare in modo profondo il costo del debito pubblico, o ci sono buffer nella struttura del debito pubblico, come in Italia, dove la vita media del debito pubblico è quasi 8 anni, quindi abbastanza protetto. Detto ciò, qualcuno vi accusa anche di essere al servizio degli speculatori, inteso non necessariamente come termine negativo, ma semplicemente come di grandi operatori che giocano sui mercati. Ciò che i mercati fanno del nostro rating è fuori dal nostro controllo. Noi cerchiamo di servire i mercati segnalando rischi in tempo, segnalando rischi che ci sono, ma anche, come ho cercato oggi, anche di far vedere dove sono probabilmente esagerazioni e dove bisogna veramente differenziare. Per chiudere, questa sera si riunirà l'Eurogruppo, dal quale probabilmente dovrà emergere una qualche decisione politica in merito alla futura struttura del patto di stabilità, proprio per risolvere quei problemi dei quali lei stesso ci stava parlando. Che cosa immagina, che cosa auspica, che cosa pensa che l'Europa debba fare? Guarda, io devo dire che noi come agenzia di rating non abbiamo mai fatto il nostro giudizio dipendente dal fatto o no se un governo è riuscito o no a tenere il 3% per esempio deficit PIL o il 60% nel debito pubblico. Per noi la tendenza e la cosa principale è la struttura che sta dietro. Cioè, secondo me, non so se si può fare questo con un cambiamento del patto di stabilità, ma forse anche in un altro modo, ma ciò che ci sembra importante è di veramente guardare la qualità della crescita economica e la qualità del consolidamento dei conti pubblici, perché abbiamo avuto il fenomeno in alcuni paesi che non c'è stato convergenza reale, non c'è stato aggiustamento reale, ma piuttosto nominale in alcuni settori inflattivi che hanno subito un forte collasso e praticamente tutto il consolidamento che abbiamo visto negli anni 90 poi è sparito, quindi un controllo o una preoccupazione un po' più concentrato sulla qualità di crescita e qualità di consolidamento. Questa dunque l'intervista all'analista sul debito sovrano dell'Italia di Moody's, Alexander Kokerbeck. Ci risentiamo tra un attimo per tornare a parlare di mercati. I cali sono ancora piuttosto pesanti. A tra poco. Le 17:41 minuti e 30 secondi. A chi ci scrive, all'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, ma chi paga queste agenzie di rating ci sembra che abbia messo il dito nella piaga, perché la questione che si pongono in molti è esattamente questa, insomma. Moody's, Fitch, Standard & Poor's hanno tra i loro azionisti società e fondi di investimento, le stesse persone che muovono il mercato, e questi sono i dubbi che si stanno ponendo in queste ore, tanto che la cancelliera tedesca Angela Merkel è arrivata a proporre la creazione di un'agenzia di rating europea, visto che queste tre, le cosiddette tre sorelle, hanno sede negli Stati Uniti. Quindi giusti tutti i dubbi. Veniamo alla giornata, o meglio, torniamo alla giornata di borsa. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, in parte della giornata ne abbiamo già parlato in apertura, una giornata convulsa, funestata tra le altre cose dal fatto che il mercato a Milano è rimasto fermo per un paio d'ore circa. Il FTSE MIB chiude con un ribasso del 3,27%, il FTSE All Share del 3,16%. Vanno un pochino meglio le cose in questo momento in America, il Dow Jones cede lo 0,79, il Nasdaq 1,5%, peggiori in Europa Parigi 4,5%, Francoforte meno 3,27%. Questo il quadro generale. Andiamo sui settori. Come hanno reagito le banche dopo la giornata di ieri? Sì, diciamo che le banche hanno reagito positivamente, almeno questa mattina, perché poi da questo pomeriggio, dopo il blocco e poi lo sblocco, anche Milano è andata a fondere, è andata a perdere più del 5%, poi è risalita grazie a Wall Street, però alla fine Intesa San Paolo perde quasi il 4%, Unicredito il 3%, quindi nuovamente la speculazione si è, diciamo, abbattuta sulla borsa di Milano, così come sulle principali europee, nonostante questa mattina Moody's avesse tutto sommato rassicurato sullo stato di salute del sistema bancario italiano. Sì, su questo tra l'altro abbiamo sentito anche l'intervista poco fa, le assicurazioni. Beh, anche per le assicurazioni abbiamo visto un'apertura di seduta molto, molto positiva, e poi anche in questo caso realizzi, ad esempio comunque in generale è andata meglio delle altre, ha perso soltanto il 2%, anche in questo caso le preoccupazioni sono molto forti, perché le compagnie previdenziali hanno in pancia molti titoli di Stato, tra cui anche quelli greci, spagnoli e portoghesi, un'eventuale, diciamo, insolvenza o ristrutturazione del debito avrebbe effetti devastanti sui bilanci di queste compagnie. Oh, naturalmente quando parliamo di peggio o meglio in una giornata come oggi parliamo scarsamente di titoli positivi, perché c'è solo UbiBanca che ha chiuso positivo con un guadagno dello 0,19%, tutte le altre sono in negativo. La migliore è Telecom Italia, un calo dello 0,85%, Ceo. Sì, arriva dopo la trimestrale di ieri, trimestrale che ieri era arrivata migliore delle previsioni, il titolo comunque ieri mattina era stato tra i peggiori, poi aveva perso terreno e oggi insomma si è leggermente rifatto, però come dicevi giustamente tu stiamo parlando di un mercato e di valutazioni completamente drogate dalla speculazione, e poi ricordiamolo anche dal blocco di un'ora che è piombato a Piazza Affari e sì, naturalmente, tutte le quotazioni. Sì, ha anche confuso un po' le acque probabilmente nella stessa testa degli operatori. Allora diciamo Telecom Italia meno 0,85, Banco Popolare meno 1,03, Atlantia meno 1,27, Terna meno 1,60, Impregilo meno 1,79, le banche un pochino meglio, si diceva Monte dei Paschi, tanto per dire meno 1,85%, e questo sarebbe un pochino meglio. Snam Rete Gas meno 1,89, Geox 2 punti percentuali di calo, Finmeccanica del 2,20%. Pessima la performance oggi di Italcementi, a prescindere dal fatto che il mercato sia andato tutto male. Sì, oggi ha diffuso i conti trimestrali che vedono un calo dei ricavi del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, hanno di poco superato il miliardo i ricavi, una perdita netta di 37,5 milioni di gruppo, quindi insomma dati negativi che sono stati insomma scontati dal mercato. Italcementi ha perso il 7%, quasi come Azimut, che è un altro dei titoli che oggi hanno pagato dazio più di altri. Allora, Azimut in calo del 6,5%, Exor del 6,21%, Pirelli meno 5,66%, cosa è successo? Pirelli è quasi come Azimut, ieri si era salvata, anzi aveva guadagnato terreno nella barra onda di Piazza Affari a causa dello spin-off dell'immobiliare che valorizza maggiormente la capogruppo, e oggi ovviamente si sono concentrate le vendite su questo titolo, insomma c'è qualcuno anche che ha realizzato dopo il forte rialzo dei giorni scorsi. Ci sono dettagli su Fiat, anche qua il calo è piuttosto forte, così come quello di Exor, Ceo? Non ci sono particolari dettagli, sia Fiat che Exor sono due mesi che guadagnano parecchio terreno sulla scia di quella che poi è stata la separazione delle attività annunciata dai vertici dell'ingotto, ed è chiaro che adesso i realizzi si concentrino su questi titoli. Grazie dunque a Ceo Condina di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Quindi questo è il quadro, torneremo poi nuovamente sui mercati dopo le 18, un quadro finale, la Popolare di Milano in calo del 5,11%, Ansaldo del 5%, Buzzi del 4,82%, Mediolanum del 4,77%, oltre i 4 punti percentuali di calo troviamo ST Microelectronics, Bulgari, Autogrill, CIR, Mediobanca, Prismian, Mediaset, Unipol, Fondiaria e infine Saipem, appena sotto i 4 punti percentuali di calo, invece meno 3,95%, Intesa, Enel che cede il 3,80%, Campari il 3,72%, Eni il 3,71%, Parmalat il 3,5%, così come Tenaris A2A, Unicredit giù del 3,32%, Lottomatica del 3,18%, Luxottica del 2,71%, Generali del 2,25%, così come Finmeccanica, Geox del 2,05%, Snam Rete Gas dell'1,89%, degli altri Monte dei Paschi, Impregilo, Terna, Atlantia, Banco Popolare, Telecom Italia e UBI. Vi abbiamo già detto la viabilità, ci troviamo subito dopo, parliamo di Intesa San Paolo. 17:49 minuti 50 secondi, veniamo al prossimo tema che è appunto Intesa San Paolo. Allora, questo pomeriggio si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo per indicare i 9 nomi che andranno a comporre il Consiglio di Gestione. Infine la notizia è arrivata, Andrea Beltrati è il nuovo Presidente del Consiglio di Gestione. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, si conclude una vicenda che abbiamo tirato avanti forse un pochino più del dovuto. Come si conclude? Si è conclusa appunto, come hai detto tu, con la nomina a questo punto ufficiale e va sottolineato all'unanimità da parte del Consiglio di Sorveglianza di Andrea Beltratti alla presidenza del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, ed è importante sottolineare all'unanimità perché appunto, come ricordavi tu, la vicenda si è protratta a lungo proprio perché c'erano state nei giorni scorsi, anzi nelle settimane scorse, una serie di divergenze da parte della Compagnia San Paolo, che è il primo azionista di Intesa San Paolo con il 10% e che aveva originariamente proposto due candidati alla pari per la presidenza, che erano l'ex ministro dell'economia Domenico Siniscalco e Andrea Beltratti. Dopo una serie di confronti con le altre fondazioni è emerso poi il ritiro della candidatura di Siniscalco e da quel momento in poi diciamo che l'ipotesi Beltratti è diventata quella più concreta fino ad arrivare a oggi con la nomina. Allora, stava seguendo i lavori per noi la nostra Anna Marino, che ci ha appena inviato una voce, quella del consigliere Riccardo Varaldo, che racconta appunto al microfono di Anna Marino come sono andate le cose. C'è stata una grande coesione, un grande senso di responsabilità per dare a Banca Intesa un nuovo consiglio di gestione all'altezza delle esigenze e delle competenze, quindi credo che sia stato un momento di conferma della grande forza anche che ha Intesa San Paolo. A parte il nuovo presidente, che ha il merito di essere un giovane formato a livello internazionale, studioso di finanza, di economia ambientale e poi anche sta preparando degli articoli sulla Cina, quindi credo che possa dare dei contributi alla banca nel suo processo di internazionalizzazione e contribuire anche al sostegno che la banca sta dando all'internazionalizzazione delle imprese. Poi la conferma del CEO Corrado Passera penso che sia la migliore garanzia, diciamo, oltre che di continuità, di stabilità, di saggezza e di grande capacità nella conduzione della banca in questo momento estremamente difficile e complesso, che richiede evidentemente queste elevate capacità. Intesa è venuta fuori dalla crisi meglio di molte altre banche, anzi ha approfittato della crisi per compiere delle operazioni di consolidamento anche patrimoniale e di avere dei livelli di liquidità che la pongono anche tranquilla di fronte anche eventualmente Basilea 3, quindi insomma complessivamente mi credo che ci siano le condizioni per un rilancio e un consolidamento della banca anche in questa fase estremamente delicata. È stato dato un grande omaggio e riconoscenza anche a Enrico Salza per quello che ha fatto, considerato uno degli artefici di questa fusione tra Intesa e San Paolo, e quindi c'è stato anche unanime questo applauso. Questo dunque Riccardo Varaldo, consigliere di Intesa San Paolo, che parla di coesione. Ti chiedo, Alessandro, siamo in chiusura di questa parte di Focus Economia, una tua valutazione complessiva al termine di questa vicenda così faticosa, se così possiamo dire. Ma come accennavo prima, mi sembra che alla fine le tensioni che erano quasi esclusivamente a Torino e che avranno poi delle ripercussioni proprio solo a Torino la settimana prossima all'interno della Compagnia San Paolo, dove si preannuncia un confronto abbastanza animato sull'operato del presidente Angelo Benessia, ma per quanto riguarda la coda finale, quindi sugli organi della banca, alla fine il consiglio è stato nominato all'unanimità, c'è un nuovo presidente che da oggi entra in carica, soprattutto ne abbiamo parlato poco in questi giorni, ma insomma la cosa principale, perché era scontata, era la conferma di Corrado Passera come amministratore delegato, e c'era credo l'esigenza da parte di tutti i consiglieri a questo punto di non perdere ancora tempo e di procedere alla nomina del consiglio di gestione, anche perché dalla settimana prossima la banca dovrà approvare i conti trimestrali ed ha in sospeso il dossier della quotazione in borsa di Fideuram, che dovrà a questo punto, insomma, essere riesaminato anche alla luce dell'andamento dei mercati, per cui serviva a tutti i costi avere un consiglio di gestione pienamente operativo in tempi rapidi. Bene, grazie anche per questa valutazione ad Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, grazie per essere stato nostro ospite, buonasera. Buonasera. E noi naturalmente diamo la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo e torneremo a parlare di mercati. Le 18, 9 minuti, 16 secondi, qualche sms a chi ci chiede se delle agenzie di rating ci siamo accorti solo adesso. No, non ce ne siamo accorti solo adesso, ne parliamo quotidianamente. Al direttore di filiale Provenienza San Paolo che ci scrive che l'abbiamo chiamata Banca Intesa e questo la dice lunga su quanto contano i torinesi, diciamo invece che insomma un lapsus può capitare e non dipende da quello. Noi torniamo adesso a parlare di mercati. Allora, cerchiamo di darvi un quadro complessivo quantomeno delle chiusure degli indici. Milano, FTSE MIB meno 3,27%, così come Francoforte meno 3,27%. In chiusura Londra riesce a contenere le perdite, il calo è del 2,62%. Madrid netto ribasso meno 3,28%. In Portogallo si scende del 3, ma forse il caso di oggi è Parigi, crollata in chiusura del 4,6%. Saluto per il fronte finanziario il nostro Walter Riolfi che ci sta accompagnando in questi giorni per capire un pochino queste giornate di mercato. Buonasera. Buonasera. Walter Riolfi del Sole 24 Ore e saluto invece per il fronte politico, perché i mercati aspettano anche una risposta politica dal Consiglio Europeo di questa sera, Adriana Cerretelli, inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles. Adriana, buonasera. Buonasera. Allora, inizierei da te, Walter. Che cosa è successo oggi? L'impressione è che gli investitori / speculatori stiano facendo l'infilata di tutti i mercati sui quali giocare al ribasso. Insomma, la settimana scorsa i cosiddetti PIX, questa settimana Francia, Spagna nuovamente e Italia. È successo un po' quello che la ripetizione di quello che si è visto ieri. Col fatto che quello che era parso un attacco all'Italia in realtà è un attacco a tutti i paesi della zona euro, e quindi oggi per esempio per quanto riguarda i mercati azionari si è esteso alla Francia e all'Inghilterra, anzi era partito da Francia e Inghilterra, perché Piazza Affari fino 3,5-4 era l'unica che guadagnasse qualcosa, perché doveva recuperare le maggiori perdite di ieri. Improvvisamente sarà arrivato il solito basket e pacchetto di ordini di vendita attraverso le opzioni sui titoli bancari, e anche i nostri titoli bancari sono andati giù. Conclusione: abbiamo perso come gli altri, e le banche italiane hanno perso come quelle francesi e come quelle inglesi dopo aver perso di più la scorsa settimana. Che tutto questo gioco si stia facendo, gioco per modo di dire naturalmente prevalentemente in Europa, ne è la dimostrazione il fatto che abbiamo visto gli indici americani scendere notevolmente in apertura, o meglio, poco dopo l'apertura di seduta. Adesso il Dow Jones cede lo 0,20%, il Nasdaq lo 0,83%, insomma perdite complessivamente piuttosto limitate, e che i mercati aspettino appunto anche una risposta politica non c'è dubbio. Dunque, Adriana Cerretelli, questa sera consiglio europeo che almeno in tutta teoria dovrebbe dare qualche nuova regola, o almeno indicare la strada per qualche nuova regola per la stabilità dell'Europa di fronte a crisi finanziarie di questo tipo. Vorrei capire da te quali sono le prospettive effettive di un accordo al quale forse l'Europa è costretta in qualche misura, e quali sono poi i contenuti sui quali si sta lavorando. Beh, dunque l'accordo non può essere che un accordo di tipo politico, perché questo tipo di misure vanno negoziate. Stasera ci sono qui solo i 16 dell'Eurozona, e però le misure da prendere contro i mercati non riguardano solo i 16, ma riguardano i 27, perché si parla anche di regolamentazione finanziaria. Ma diciamo, le aspettative, per essere molto sintetici, sono sostanzialmente su quattro punti. Primo, ci sarà una riassertione dell'unità dei 16 dell'euro e al tempo stesso l'assertione della bontà di questo pacchetto di aiuti alla Grecia, che viene ritenuto assolutamente sufficiente per disincentivare gli attacchi della speculazione. Poi il secondo punto riguarderà la governance europea, la governance dell'area euro, dunque rafforzamento del patto di stabilità con sanzioni, allargamento dei parametri da tenere sempre più d'occhio relativi a debito e deficit, mentre finora è stato sostanzialmente soltanto il deficit, poi rafforzamento del coordinamento delle politiche di bilancio anche in via preventiva, cioè prima che i bilanci siano decisi dai governi e dal Parlamento, ci sarà una consultazione tra i governi. Poi, sempre in fatto di governance, allargamento della sorveglianza anche alle riforme strutturali e ai divari di competitività. Sul fronte della disciplina ci sarà un impegno ad adottare tutte le misure necessarie per accelerare il consolidamento finanziario. Quindi tagli di spesa si sono già visti d'altra parte in alcuni paesi, per esempio ieri la Francia ha agito, Tremonti stesso ha annunciato le manovre per il prossimo biennio. Voglio dire, si vogliono dare tutta una serie di segnali per spiegare ai mercati che il consolidamento della zona euro verrà accelerato. E infine ci sarà un messaggio forte per i mercati, nel senso che è chiaro che le regolamentazioni finanziarie di cui si discute da mesi non possono essere fatte dall'oggi al domani, ma certamente si vogliono stringere le regole sulle agenzie di rating, mettendole anche in competizione tra loro, immaginando proprio un'autorità europea che in qualche modo sorvegli anche il modo con cui si decidono i rating. Poi ci saranno naturalmente il desiderio di accelerare sui derivati e i CDS, e poi si parlerà anche dell'impegno ad una tassa finanziaria sulle banche. Allora Adriana, ti fermo nel frattempo, diamo la linea alla viabilità, poi ho ancora due domande, una per Walter Riolfi e una per te. Voglio capire da Walter se ritiene che tutto questo possa bastare ai cosiddetti speculatori investitori, e la seconda domanda sarà per te Adriana, voglio capire se non si rischia, cosa che si è rischiata spesso negli ultimi mesi e forse anche negli ultimi anni, l'enunciazione generica senza atti concreti, la viabilità. Allora, le 18 minuti e 45 secondi, ci sono due questioni da approfondire con Walter Riolfi. La prima è la domanda che gli ponevamo prima, ossia se secondo lui quel che si appresta a varare il Consiglio europeo possa bastare, e poi il nostro Walter Riolfi aveva qualcosa da aggiungere sul tema proprio della speculazione e non speculazione. Walter. Allora, fino a qualche giorno fa, la settimana scorsa, indubbiamente c'era la speculazione che si è mossa. Adesso il problema è molto più complesso. Liquidare questo come spiegazione vuol dire non voler vedere quello che sta succedendo, no? Il problema è che il mercato obbligazionario, anche quello dei titoli di Stato, si è gelato, si è contratto, è illiquido, è diventato. Quindi tutti gli investitori, tra cui le stesse banche europee, che volessero vendere titoli di Stato non lo possono fare, no? O vendere anche semplicemente in parte, no? Questo qui ha scatenato l'altra via, che era quella di vendere i titoli in borsa, con i risultati che abbiamo visto, perché le borse valgono un decimo di capitalizzazione rispetto a tutto il mercato obbligazionario internazionale. Ecco, e quindi a questo punto una risposta da parte delle autorità monetarie o dell'autorità politica, ma in questo caso l'autorità monetaria della BCE, è importante. Quello che si vogliono sentire dire gli operatori, gli investitori, è che la BCE sia pronta ad acquistare titoli di Stato, quello che aveva fatto la Fed concluso nel marzo scorso, il programma TARP, attraverso il quale aveva acquistato titoli di Stato americani per 1.250 miliardi di dollari. Quindi qualcosa di analogo ci si aspetta anche dalla BCE, ma la BCE è evidentemente molto più lenta della Fed nell'assumere decisioni di questo tipo. Benissimo, io ringrazio intanto il collega del Sole 24 Ore Walter Riolfi, che ci ha aiutato a capire anche questa giornata di mercati e quello che sta succedendo in queste ore sui mercati. E chiudiamo la parte più puramente finanziaria con una battuta che ci arriva via SMS, che dice: cartolarizziamo i prestiti alla Grecia e vendiamoli come prodotti a Goldman. Questa non è per niente male. Chiudo questa pagina con Adriana Cerretelli chiedendole quel che ci dicevamo prima: non c'è il rischio delle enunciazione generica, insomma, è vero che i tempi di una riforma finanziaria addirittura di livello europeo sono lunghi, e però è vero, il solito discorso è quello, che i mercati non aspettano. Sì, però io sono assolutamente d'accordo su quelle che possono essere perplessità, però io credo che la situazione tragica nella quale ci siamo cacciati è dovuta al fatto che la Germania ha esitato troppo, sostanzialmente per 3 mesi prima di decidersi, e questo ha aperto una finestra per i mercati, che hanno cominciato naturalmente delusi dal fatto che alla fine la Grecia è stata aiutata, adesso stanno in modo selettivo attaccando, cercando di dare lo scrollone a uno per uno tutti i paesi. E io credo che la Merkel abbia capito i discorsi che ha fatto al Parlamento l'altro ieri e ieri sono molto molto significativi. La lettera che hanno mandato insieme Sarkozy e Merkel è una lettera pesante sotto tutti gli aspetti. La Merkel ha detto chiaro: noi siamo in guerra con i mercati, ma noi vinceremo. Non ci dimentichiamo che oggi Merkel ha parlato con Obama, ed Obama, il presidente americano, si è speso anche lui, e in più ci sarà una riunione del G7, finanziario, sempre su questa crisi. Cioè io credo che si stiano mobilitando tutte le forze che si possono mobilitare per spiegare ai mercati che l'attacco all'euro non passerà. Detto questo, naturalmente non si può mai dire nulla, però io non ho mai visto uno spiegamento di forza e di impegno di questo tipo. E questo è confortante. Grazie dunque ad Adriana Cerretelli, inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles. Buonasera. Arrivederci. E grazie anche a Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Grazie anche per oggi, Walter. Buonasera. E noi cambiamo argomento e parliamo adesso di telecomunicazioni. Più che di telecomunicazioni parliamo di rete, perché sembra prendere concretezza o almeno esposizione mediatica, se così possiamo dire, l'ipotesi di una rete alternativa, una rete in fibra ottica alternativa a quella di Telecom, che poi, tanto se ne è discusso, ma che poi alternativa non è. Buonasera Enrico Pagliarini. Buonasera Simone. Beh, direi la seconda che hai detto, diciamo se ne parla, ed è questo già positivo. Peccato che capiti in una giornata del genere questo annuncio. Oggi c'è stata una conferenza stampa congiunta di Fastweb, Vodafone e Wind, che molti si aspettavano volessero annunciare una rete alternativa. In realtà non stiamo parlando di una rete alternativa, ma direi subito di entrare nel vivo sentendo Luigi Gubitosi, che è stato il primo a prendere la parola, amministratore delegato di Wind, che già ci dice alcune cose su alternativa sì o alternativa no. Ora, in realtà non è alternativo, se non alternativo allo status quo o alternativo a, diciamo, la situazione attuale. Non è un progetto alternativo a qualche altra cosa, perché come vedrete noi pensiamo che ci debba essere un solo progetto cui partecipano tutte le controparti interessate, e che se fatto così è un progetto che può volare da subito, può essere bancabile e può essere un progetto per il Paese. Come deve essere questa rete del futuro di cui si parla da tempo? Evidentemente non può che essere unica, è un investimento importante, evidentemente è un investimento necessario ma dispendioso, e quindi il rilevante anche impatto urbano e ambientale non permette di avere più reti, non avrebbe senso. Lo schema sarà un fiber to the home, la rete in fibra deve raggiungere ogni singolo appartamento e sarà una rete aperta, deve essere una rete aperta che possa permettere a tutti gli operatori di offrire i loro servizi in concorrenza. Allora, parliamo di quattrini, Enrico, che cosa vuol dire? Allora, questo è un primo progetto che partirebbe da 15 città le più popolose, le più ricche in Italia, dove già c'è un po' di infrastruttura, ad esempio cavi dotti. Si parla di 2 miliardi e mezzo, un investimento in 5 anni e, come abbiamo sentito, si attendono risposte dal governo, dalla Cassa Depositi e Prestiti, e quindi si parla di 2/3 a debito, a tassi di mercato, così hanno detto gli operatori, e un altro terzo di, come dicono gli esperti, di equity, quindi di investimenti, e questo terzo verrebbe poi suddiviso di nuovo in 3, un terzo a Telecom, un terzo alla Cassa Depositi e Prestiti e un terzo ad altri operatori. E Fastweb, Vodafone e Wind hanno detto: siamo aperti ad altri operatori di telecomunicazioni, ma ad altre società, banche o ad esempio soggetti di altro carattere, che ne so, televisioni. Potrebbe essere questa una ipotesi. Comunque, dicevo, l'importante è che se ne cominci a parlare. Ci sono naturalmente molte domande che non hanno ancora una risposta. Ad esempio, si parte da queste 15 città, ma che ne sarà del resto del paese? Qui naturalmente il ruolo dello Stato sarà molto, molto importante. Fortunatamente alcune regioni, come la Lombardia, stanno partendo con progetti che non so a questo punto se definire alternativi o complementari, lo vedremo, che promettono di portare la rete in fibra ottica di cui ci sarà bisogno tra qualche anno anche in paesi o comunque in zone rurali. Dunque vedremo che cosa succederà, quale sarà la risposta del governo, quindi della Cassa Depositi e Prestiti, e soprattutto la risposta di Telecom Italia, perché quella mi sembra centrale. Sì. Chiudo dandovi un paio di aggiornamenti. Si sono persi oggi 183 miliardi di euro in 4 sedute, 440 miliardi, questo è il dato sulla borsa. Chi ci chiede un aggiornamento su Wall Street: meno 0,67% il Dow Jones, meno 1,38% il Nasdaq. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Ringrazio Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.